Se ci sono altre squadre che sono più brave di noi, tanto di cappello. Quello che cerco di trasferire ai miei calciatori è quello di cercare di raggiungere il massimo e non avere rimpianti. Ecco, stasera magari qualche rimpianto c'è. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Prova ancora lo spunto, Magnani, possibilità per il tocco dentro, deviazione 3-3, 3-3. Non mi ricordo parate particolari di Handanovic, siamo stati noi poco bravi a capitalizzare le occasioni create, altrimenti saremmo a parlare di una vittoria e non di un pareggio. Però se buttiamo tra virgolette questi punti, ci dobbiamo guardare noi e cercare di capire, no, il perché ci è capitato di perdere punti in maniera sciocca, no? Straccia superato! Jose! Palomino! 3-2! Ho la sensazione che questa squadra abbia sempre meno bisogno dell'allenatore. Sa benissimo cosa fare, come muoversi. C'era già nell'intervallo la convinzione di poter vincere la partita. Questo, quando sei sotto, non è facile da ottenere come mentalità. Questa sconfitta quanto complica la strada verso lo scudetto? Complica senz'altro, perché insomma era da 21 partite che non perdavamo, erano venute 17 vittorie e 4 pareggi, ci dispiace, sapevamo che rientrare con l'Atalanta probabilmente era uno degli avversari peggiori. Pierluigi Pardo, Radio Twittami. Radio Twitto, mi pare che ieri il campionato sia tornato alla sua pienezza, cioè ieri mi è sembrata la serata in cui, al di là dei risultati, ma per il tipo di partite che si sono viste, per i capovolgimenti che ci sono stati, per l'intensità che c'è stata, è come se il campionato fosse tornato con tutta la sua adrenalina. Poi, se quello di ieri sarà un segnale preciso a favore della Juve, oppure se ci sarà ancora lotta, lo approfondiamo. Però insomma, mi sembra che ieri, pur senza pubblico, siamo tornati a vedere delle partite veramente di una intensità, sì. E anche di un divertimento, poi qualcuno chiaramente più felice, qualcuno meno, clamoroso. Ivan Zazzaroni, noi siamo felicissimi, Perché non dire queste cose, che poi uno pensa che uno tifa, che siamo felicissimi di che? No, spiega, siamo felicissimi di quello, ma di quello che hai detto tu, no? Cioè del fatto che del fatto che abbiamo visto delle grandi partite, che sì, il resto che sì. Ci frega. Ivan. Vediamo giocare a calcio, ma dubbi non ce n'erano, nel senso che più giocano e più giocano meglio, questo mi sembra evidente. Chiaro che la Juventus era la terza partita. L'Inter era la seconda partita, o la terza, non mi ricordo neanche più, quindi la terza, perché c'era stato recupero, certo. Hai capito? Quindi non ha fatto una grande partita, il Sassuolo è la seconda, queste cose qua un po' dopo 3 mesi di stop si avvertono, e ha ragione Inzaghi quando dice l'avversario peggiore in questo momento era Atalanta. Atalanta ha una condizione, fa paura, cioè il secondo tempo è impressionante. Sì, d'altra parte poteva vincere 14-3. Ivan ha ragione anche dalla Palma sulla prima pagina del tuo giornale, nel sottolineare come la Juventus ha segnato più gol ieri dal Tinello che in 3 partite, sì, ce ne ha fatti 6. Capita abbastanza spesso alla Juventus, però, da questo punto di vista, di segnare anche dal Tinello, mentre gli altri non cioè quando hanno l'occasione per fare l'allungo, e questa è una serata veramente pro Juve a dei livelli pazzeschi, perché hai a 4 la Lazio e giochi con Lecce in casa la prossima, per cui io credo sinceramente che sia una giornata di svolta. Non me lo auguro, perché mi piace vedere un campionato vivo anche nella corsa scudetto. E non me ne vogliono i juventini, poi se me ne vogliono è uguale, ecco, da questo punto di vista. Io penso che sarà vivo, io continuo a pensare che ci sarà lotta, non credo che sia finita qui, anche se sicuramente, proprio anche in termini storici, la squadra che domina il campionato da anni, che si trova in una condizione di non clamorosa brillantezza, e che nel primo snodo cruciale dopo la ripartenza si prende questo vantaggio, può far pensare quella cosa lì. Anche e sicuramente, la Lazio e l'Inter, anche se l'Inter probabilmente dopo il pareggio di ieri è veramente troppo distante, però insomma dovranno comunque tutte e due reagire psicologicamente. Inter ci sono ha un calendario buono. L'Inter ha un calendario buono, sì, aggiungendo al fatto quanto dicevi no sulla Juventus. Pure ieri sembrava buona. Sì, sempre sembrava buona, hai ragione. No, ma poi aggiungendo a pro Juventus che non, a quest'ora della stagione normalmente ci sono gli scogli europei sui quali la Juventus deve spesso si incaglia, no? A questo punto sì, questo è un vantaggio, è un vantaggio. Nello svantaggio dell'assenza di pubblico, perché la Juve è quella che ha l'incidenza maggiore da questo punto di vista, ha il vantaggio di poter, l'aveva detto anche Sarri, mi dedico a un titolo, a un torneo per volta, prima la Coppa Italia, poi la Scusa Male, poi il campionato, poi arriva la Champions, per cui credo che da questo punto di vista non ha distrazioni particolari, anche a livello atletico, ha un po' di infortunati, però ti ripeto, se tu fai un ragionamento su qual è la squadra che ti dà l'idea della maggiore continuità, la Juve, difficilmente sbaglia i momenti chiave della stagione. Sì, Pierluigi, mi dici com'è stato commentare l'Inter dallo stadio, la giornata che hai vissuto, la serata che hai vissuto? Guarda, ieri è stata secondo me una rappresentazione plastica, come si dice qualche volta, della differenza fra tutto il contorno e la partita, nel senso che onestamente arrivare allo stadio, al di là del fatto che l'ho sottolineato anche in fase di presentazione e lo dico anche in radio, è bello vedere l'organizzazione, è bello vedere che c'è la pressione che viene misurata all'inizio, a tutte le persone che entrano allo stadio, la temperatura, il triage che sta fuori, il percorso, non si prende l'ascensore, va bene, io e Clavero siamo riusciti eroicamente a farci tutto San Siro fino alla cima, quindi voglio dire efficienza, organizzazione, attenzione, questo è positivo. Poi certo, vedere San Siro che mille volte abbiamo visto pieno di gente con le salamelle fuori, con i selfie, con la gente che viene lì, la bellezza di tutto questo, il traffico, la gente che aspetta il pullman, ecco, veramente questo è qualcosa che stordisce. Poi però la partita è stata bellissima, cioè, poi sinceramente da telecronista mi sono divertito proprio un casino, perché la partita con 6 gol così aperta fino all'ultimo minuto, anche con delle imperfezioni che però l'hanno resa più spettacolare, quindi è stato esattamente quello che dico da un po', cioè la tristezza del contorno, l'attesa del pubblico che sappiamo che c'è ma che in questo momento non può venire allo stadio, però poi il gioco che ti conquista. Io credo è il puro spettacolo del calcio, in essenza. La partita è stata bellissima anche perché secondo me l'Inter l'ha resa bellissima per le sue colpe, o meglio per l'Inter le colpe di Conte. Allora, secondo me la Lazio paga il fatto di essere corta, perché ieri abbiamo visto che i cambi non sono all'altezza, che la condizione è quella che è e che ci sono alcuni uomini chiave, Immobile, Luis Alberto su tutti, che non sono in condizioni brillantissime. Poi quando deve cambiare i giocatori per sfinimento, ecco che entra Anderson, di cui ho scoperto ieri l'esistenza, entrano giocatori che non sono all'altezza dei titolari. L'Inter è stata accorciata troppo da Conte, perché non mi spiego tutti quei cambi iniziali e quella la squadra che ha finito la partita, quindi secondo me è andata un po' così. Ivan, sì, è andata così, però la Lazio ha pagato il fatto di volava 17 vittorie consecutive, quelle che 21 risultati utili consecutivi, si è fermata per 3 mesi, la macchina si è fermata. La Juve veniva da un brutto momento, però a febbraio era stata una brutta Juve anche a livello di risultati, e invece è stata favorita dallo stop lungo da questo punto di vista, al di là del fatto che in Coppa Italia non ha segnato manco un gol, e poi c'è stato tutto il resto, cioè io quello che ho visto, quello che mi ha colpito è l'Atalanta. Cioè l'Atalanta è una squadra che ha un gioco talmente definito e talmente assorbito dai giocatori. Non è cambiato nulla. Veramente col Sassuolo poteva farne 14, ragazzi, mancava Ilicic. Cioè, ieri ha avuto, come dice anche Gasperini, durante l'intervallo erano sicuri di vincerla. Quando tu hai quella sicurezza, quella consapevolezza, la tua forza, fai fatica a perdere le partite. Cioè, loro sono convinti di essere forti. Hai capito? Questi li vedremo nella Final Eight di Champions, hai capito? Cioè è una stagione in cui viene esaltato il lavoro dell'allenatore e del gioco. Sull'Inter, obiettivamente, io ho le mie riserve, perché l'ho vista giocare bene poche volte. quest'anno, ma molto avanti di individualità, aveva fatto molto bene l'altra giorno nel primo tempo. Aveva fatto bene anche a Napoli in Coppa Italia. Meglio del Napoli. Ieri un passo indietro clamoroso, ma anche in termini proprio di approccio alla partita, perché non è normale prendere un gol come quello che l'Inter prende, praticamente in contropiede. Ma in contropiede non sulla palla gol che aveva avuto l'Inter, cioè non è che dici abbiamo concesso il gol in contropiede, perché cioè su una proprio un'interpretazione difensiva completamente sbagliata, poi anche con l'errore di Ranocchia, ma insomma tutto il reparto lì non ha funzionato. E poi una volta che la partita in qualche modo l'hai rimessa in piedi, anche per demerito del Sassuolo, che ha avuto un paio di occasioni nel primo tempo per andare sul 2-0 di contropiede che potevano essere sfruttati meglio, sei avanti 2-1, sei avanti 3-2, la partita la devi chiudere. C'è poco da fare, insomma, chiaro che Gagliardini e Candreva hanno avuto due occasioni enormi, però anche l'atteggiamento difensivo non mi è piaciuto. Ma Pierluigi, però non è neanche facile. Parlava di veleno, no? Sì, allora, parlava di veleno, ti dico, non è facile neanche trovare le misure e le contromisure quando ti rivoluzioni la formazione rispetto a tre giorni fa. Ieri forse troppo turnover, lo diceva Balzaretti nel post partita, e sono. Non so se sono d'accordo, però è una suggestione molto interessante. Forse troppi cambi, cioè paradossalmente certo. L'arma dei cinque cambi non è stata sfruttata a dovere. Young è entrato malissimo, e da uno come lui con 11 anni di esperienza in nazionale e ormai quasi 20 anni di calcio professionistico fa un po' effetto. Pier, c'è la mancanza di abitudine a questo tipo. Noi stiamo vedendo un calcio completamente diverso. Giocano ogni tre giorni e giocano con cinque cambi, per cui chi ha assorbito meglio il gioco può anche fare in un certo modo. Chi invece il gioco non l'ha ancora assorbito e mi fai giocare, mi fai tanti cambi, devi variare la formazione, vai in difficoltà. È chiaro che anche l'allenatore stesso deve abituarsi a un ritmo completamente diverso rispetto a quello della sua vita, nel senso che non abbiamo mai visto un calcio, un campionato nel quale si gioca costantemente dopo ogni tre giorni, nel quale devi comunque gestire anche le forze, in quale vedi anche un numero di infortunati non indifferente. Cioè qui veramente si vede la capacità di adattarsi anche alla grande novità. Questa è una grandissima novità. Sì, ma vale anche per l'Atalanta, però, Ivan. Ti ha appena detto il dottor Gasperini che possono far senza allenatore. È chiaro che è un paradosso, è chiaro che è una provocazione, però loro hanno assorbito il gioco, cioè a parte che fa cambi, tutti quelli che giocano hanno giocato tanto, perché se entra Malinowski ha giocato tantissimo quest'anno, se entra Gosens ha giocato tantissimo, se entra Zapata è quello che ha giocato meno perché ha avuto l'infortunio, ma sa dove gli arriva la palla, il Papu c'è sempre fondamentalmente dietro, da Palomino, insomma loro riescono, poi c'è Latebur. Atalanta è una cosa profonda, cioè uno pensa no, Atalanta no, la più grande delle provinciali, l'Atalanta ha una rosa da grande squadra, nel senso che ha una varietà di soluzioni offensive, insomma io credo che uno tipo Zapata o Mori alla Juve in questo momento farebbe gol. Ha una rosa molto utilizzata, cioè tu mi hai parlato prima di Ranocchia, ma Ranocchia ragazzi quante partite hai fatto quest'anno? Appunto. Cioè, se tu metti dentro Ranocchia ha giocato il campionato delle prime due, quindi non si vedeva da agosto, ha giocato qualche partita in Coppa Italia in Europa League. Ho capito. Sì, ieri secondo me troppo turnover, onestamente, col senno di voi, poi dopo siamo tutti bravi, per carità. Però insomma. Ma io sul discorso delle grandi soluzioni offensive sono un po'. Perché quando si infortunò Zapata, pensammo, oddio, è finita. Beh, senza Zapata hanno giocato a volte il Papu, a volte Muriel, sì. E segnavano molto, i Decis hanno segnato molto più che prima. Quindi, ti ripeto, dobbiamo fare i complimenti a una squadra che obiettivamente sta dando lezioni a tutti. E quando l'altro giorno del derby ha detto è la squadra che ha segnato maggiormente questa stagione, è vero. Sì. Cioè, l'Atalanta è quella che se tu ti pensi concede anche gioco, tantissimo, ha un, in questo modo di giocare molto europeo. Lui il rischio lo prende sempre dietro, perché la difesa gioca per i cavoli suoi. Lui il rischio, quando lui attacca ti fa paura, perché ti attacca in 6, a volte in 7. Sì, ma soprattutto non ha, secondo me, proprio nel DNA la capacità di gestire le partite, che è l'unico limite. Ieri se la Lazio fa il terzo gol al 20esimo ci sta, Sì. Esatto, sarebbe il Real Madrid dei tempi d'oro. Ma se tu pensi anche a Sassuolo, primo tempo Sassuolo poteva stare 2-0. Sì, assolutamente. E infatti, secondo me, De Zerbi, quando ieri il post partita parla del fatto che non è soddisfatto, che c'è ancora un grande margine, cioè secondo me l'idea del Sassuolo e di De Zerbi è diventare un Atalanta. Cioè il modello di riferimento è assolutamente quello, perché è una squadra in comune, ha una un'idea, un'impostazione di gioco sicuramente collaudata con un pensiero positivo, in meno ha sicuramente un po' di qualità, perché l'Atalanta ne ha certamente di più, e poi il fatto di aver lavorato, cosa l'Atalanta ha fatto proprio sulla crescita mentale. Noi non dobbiamo dimenticarci che quest'anno l'Atalanta ha iniziato la Champions malissimo, sì. E secondo me quella cosa lì non è secondaria, perché è stato come vincere lo scudetto passare quel girone di Champions, in termini di autostima, in termini di fiducia nei giocatori, assieme alle grandi vittorie, 5 gol dati al Milan, alle grandi partite che abbiamo visto. Ma c'è quella cosa lì che secondo me ha cambiato proprio la testa dei giocatori, che oggi sono a tutti gli effetti una grande squadra. Però io dico sulla Lazio aspettiamo, perché io sono convinto che la Lazio possa fare ancora grandissime cose, e ieri è calata la distanza, sicuramente non ha la panchina lunga che può avere la Juventus, però insomma io aspetterei un po', perché secondo me la Lazio non giocava dal 29 febbraio, lo ricordiamo, ma poi i colpi ce l'ha, perché poteva perdere a zero, l'avete detto voi. Io mi tengo il dubbio della condizione fisica, perché la Lazio, ma loro prima ce l'avevano il problema della condizione fisica. Io ho parlato con un laziale il giorno prima e diceva che non stavano benissimo sul piano della condizione fisica, e loro stesso lo avvertivano, hai capito? Però per quanto riguarda anche il discorso del calcio, guardate anche Juric col Verona, cioè fa un calcio con molta meno qualità, ma molto simile a quello di attacca con 6 persone, con 6 giocatori, quindi rischia, ma ha dei difensori che stanno funzionando ed ha molta meno qualità. E non a caso dietro la stagione del Verona c'è proprio la scuola, c'è l'imprinting di Gasperini. Sì, certamente. Ivan, per chiudere, invece il futuro della Lazio, tu come lo leggi? Futuro immediato della Lazio? Cioè questa è una mezza sentenza quella di ieri, o ci sono margini? No, non è una mezza sentenza, ma è una brutta botta. È chiaro che ora devi reagire, hai un calendario meno facile inizialmente rispetto a quello della Juventus, hai 4 punti di differenza che sono anche rimediabili, bisogna capire la Juve come insisterà. Però io ti dico, per rendere perfetta quest'estate sono ancora 2 cose. La prima è il rientro del pubblico, naturalmente, anche se contingentato. La più urgente è di cambiare l'orario della terza partita. Cioè alle 21:45 per andare di notte, no, questo non esiste al mondo, mi auguro che la Lega intervenga. Perché sinceramente io vedo giocare alle 14:30 in Spagna, vedo giocare alle 15:30 in Germania, vorrei capire perché l'AIS ha talmente rotto le palle per mezz'ora. Fai 17, 19, 21 o 21:15. Guarda che veramente c'è un calo di interesse nella seconda parte che è micidiale. Eh beh sì, si fa tardi. Grazie Ivan, a presto. Voi. Ciao direttore. Allora ci fermiamo per un nanosecondo, ma torniamo subito con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde, WhatsApp vocali 349 238 6666. Sempre convinti che Antonio Conte sia un grande allenatore? Io ho grandi dubbi. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Buongiorno Radio Pinetina, Ops Radio 24. Volevo solo ricordare che è stato sufficiente il Sassuolo per fermare la magica Inter. Buongiorno. Attenzione, la partita dell'Inter va invalidata perché Gagliardini, che è un giocatore amatoriale di calcio amatori, ha giocato tra i professionisti e non c'è stato ancora lo sblocco del governo alle partite di calcetto. Sarcastici i nostri ascoltatori. Sull'Inter abbiamo detto e diremo, secondo me, una volta tanto bisogna anche esercitare il diritto di critica nei confronti di Conte, che secondo me ieri ha fatto degli errori importanti. Per Luigi lo sa benissimo perché era lì allo stadio. Assolutamente. Salvatore, assolutamente. Buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. E niente, io proprio perché vi seguo tutti i giorni, quindi ho posto la scelta ovviamente sull'Inter, dove insomma precedentemente in altre trasmissioni si è parlato di Inter, voglio dire, in salute, no? E però ieri si è visto proprio delle lacune enormi, voglio dire. Non credo che non sia neanche all'altezza, voglio dire, di Atalanta e Lazio, quindi a questo punto qua credo che difficilmente riuscirà ad arrivare in Champions, probabilmente. No, beh, Champions adesso non esageriamo, a 10 punti di vantaggio sulla Roma, di cui poi peraltro parleremo, 4 di vantaggio sull'Atalanta, insomma adesso fino a ieri dicevamo che l'Inter era in corsa per lo scudetto, adesso vediamo. Ma c'è questa simpatica anomalia che noi tendiamo a commentare quello che vediamo. sì. C'è questo dettaglio, cosa dici? Con una palla di vetro. Personalmente ho visto anche l'Inter, diciamo, anche nelle giornate precedenti, voglio dire, che non è che mi ha fatto proprio, ecco, esaltare in merito al gioco che, insomma, che esprime e quant'altro, però voglio dire, si è un po' enfatizzato il fatto che, insomma, era una buona Inter, ma onestamente Napoli, per quanto riguarda la ripresa, Napoli ha giocato una buona gara con la Sampdoria, un ottimo primo tempo, il resto non so. Si è enfatizzata una cosa che era vera fino alle ore 19 di ieri sera, e cioè che l'Inter a 12 giornate alla fine a meno 6 aveva il diritto e il dovere, certo, di credere nella lotta per lo scudetto, perché secondo me con 36 punti a meno 6 io rimango convinto. Poi certo, ieri un passo indietro importante, sì, clamoroso, e probabilmente adesso a meno 8, a 11 giorni dalla fine, la classifica fa tutto un altro effetto. Cioè, è chiaro che le probabilità dell'Inter sono diminuite drasticamente col pareggio di ieri, un po' dal punto di vista pratico, perché due punti pesano, ma soprattutto perché ieri, in una partita in cui l'Inter doveva mostrare quella continuità, quella cattiveria, quel veleno di cui lo stesso Conte aveva parlato, si è visto l'esatto contrario. Ieri, certo, pessimo, poi qualcuno mi deve spiegare perché dopo un buon primo tempo con la Sampdoria, poi gestito nella ripresa, dopo la partita di Napoli, ieri ti presenti con Biraghi, Borja Valero, Gagliardini, Moses a centrocampo, Ranocchia in mezzo alla difesa e Lautaro Martinez, che era tornato a giocare un'eccellente partita contro la Sampdoria, che parte dalla panchina. Cioè, sì, poi la sensazione è che ci sia stato troppo turnover, va detto, non perché ci sia bisogno e non deve diventare un alibi, va detto che ieri c'era un reparto dell'Inter che era completamente in difficoltà, che era il centrocampo, perché comunque mancavano tre giocatori importanti come Brozovic, come Sensi e come Vecino, sì. Quindi questo va detto, nel senso che non è che Conte ha scelto quel centrocampo lì perché gli piaccia Gagliardini, tanto per essere chiari, più di Brozovic. L'ha fatto perché non aveva alternative in questo momento. Poi la partita è girata in tutti i modi possibili, poteva girare a favore del Sassuolo nel primo tempo sicuramente, poi su quelle due occasioni, sul 2-1 con Gagliardini clamorosa e sul 3-2 con Candreva, poteva girare a favore dell'Inter. Alla fine il pareggio sarebbe il risultato giusto, il Sassuolo non ha rubato niente, no. L'Inter ha perso una grande occasione e ne paga le conseguenze, ma la faccia di Conte ieri sera nelle interviste dice tutto, sì, certo, di quanta delusione ci sia stata e di che grande passo indietro ci sia stato rispetto, certo, a due partite secondo me buone, perché due partite, almeno una partita e mezza eccellente, poi secondo tempo la Sampdoria va bene, Napoli bene, primo tempo la Sampdoria uno dei migliori stagionali e poi... Leonardo. Buongiorno a tutti. Dica. Io devo dire che da interista metto in discussione Conte, perché non è possibile vedere un Inter giocare in quel modo. Nel primo tempo Sassuolo meritava di essere 3-0. Noi non abbiamo fatto un tiro nello specchio della porta, se non su punizione, che il portiere poteva andare a fare. Poi a parte gli ultimi 10 minuti, i gol che sono venuti in rigore e quant'altro, ma se no di 0-0 stavamo giocando contro il Sassuolo, non contro il Real Madrid. Questo è un passo che va messo in discussione il signor Conte, che non prende due ceci e due banane, ma dovrebbe essere un allenatore capace di guardare in là del proprio naso. Io se fossi Suning gli chiederei per le orecchie, ma direi: ragazzo, ma così non vai da nessuna parte, ma non arriviamo veramente a guardare più là. La Coppa Italia l'abbiamo regalata e questa era un'opportunità, vedendo anche la Juventus che rimane la squadra migliore. No, più che altro, sa, adesso al di là di tutto si vedono in alcuni casi, ma Pier l'ha sottolineato prima, degli errori che non sono propriamente la squadra di Conte, perché gol preso in contropiede, grida vendetta, esatto. Così come ti ricordo quello a Napoli, in vantaggio 1-0 prendi gol in contropiede su rinvio del portiere avversario, che è una cosa che in Serie A non si vede in giorni. Un dato proprio da telecronista che ha preparato la partita ieri, che ieri è stato ulteriormente confermato: Handanovic in campionato nel 2020 non ha mai fatto un clean sheet, cioè non ha mai finito una partita bravo, battuto. Insomma, ci sono dei segnali secondo me abbastanza abbastanza inquietanti rispetto a quella che è la caratteristica della squadra di Conte. Però ripeto, ieri è un passo indietro importante, il calcio delle volte sorprende, ma meno male, ma meno male, meno male, ma cioè, meno male. Anche adesso, e poi come dici tu, noi commentiamo quello che vediamo, quanto al futuro ci stiamo attrezzando. Appunto. Allora facciamo che ci ascoltiamo la borsa e poi diamo un'occhiata a Roma, a partire da quel gol pazzesco di Dzeko, che ha un po' così messo, spazzato la polvere societaria sotto il tappeto almeno per una sera. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Mister Gente e Pier Pardo vi aspettano. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Convocati. Pellegrini, palla dentro, grande palla a cercare Dzeko, un gol meraviglioso. È una doppiata che mancava quest'anno, no? Dimenticato proprio come si fanno due gol, però speriamo che da oggi ricominciamo. Se Atalanta continua così sicuramente sarà difficile, però se ci perdono qualche punto noi dobbiamo essere pronti. Perdere qualche punto al momento mi sembra abbastanza complicato. Non stavo morendo da ridere, Pier, perché Dario Ricci, amico collega che tutti conoscete, mi ha appena girato un link di Sport Mediaset, del sito di Sport Mediaset, ed è questo: gaff del Leeds che, come molti altri club, ha riempito lo stadio di Elland Road con i cartonati dei tifosi, tra questi però anche la foto di Bin Laden. Un errore nato dallo scherzo di qualcuno che ha caricato l'immagine del terrorista sul sito della squadra. Il club inglese, rientrato da Bielsa, si è scusata per l'accaduto e ha provveduto a rimuovere la sagoma di cartone, meno male. Sì. Pensa un po'. Matteo Pinci, buongiorno, Repubblica. Buongiorno a voi, buongiorno, ciao Pier. Ciao Matteo. Ciao. Senti, dicevo prima, la classe immensa di Dzeko, che per una sera ha spazzato sotto il tappeto la polvere di una Roma che è circondata da enormi dubbi sul piano societario. E non era neanche partita bene con la Sampdoria. Cominciamo dal campo, che non ho mai trovato dopo alla ripresa. Beh, hai detto benissimo, sicuramente non era partita bene, o meglio, i primi 10 minuti era sembrata una squadra viva, anche con delle idee, poi improvvisamente come se si fosse spenta la luce, no? Il retropassaggio con cui Diawara ha innescato di fatto il gol della Sampdoria, fin lì obiettivamente inimmaginabile che la Sampdoria potesse passare in vantaggio. Da quel momento è completamente scomparsa dal campo la Roma. A me è sembrato che Fonseca avesse scelto una squadra di camminatori, di passisti forse, ecco, con Pastore, con Diawara stesso, con forse due centrali anche con caratteristiche fisiche piuttosto simili in difesa. Ecco, magari ecco, la qualità di Mancini che nell'impostare, nel costruire dal basso è sicuramente mancata, soprattutto nel primo tempo, e soprattutto devo dire che però poi Fonseca è stato bravo a ribaltarla e mi viene da dire, almeno il pensiero che ho fatto assistendo alla partita, è forse la prima volta che vediamo utilizzare le 5 sostituzioni in maniera produttiva. In che senso? Nel senso che 3 cambi tutti insieme ovviamente a febbraio non li avremmo mai visti, no? Ecco, e vedere un allenatore cambia 3 giocatori e riesce veramente a ridisegnare completamente la squadra, che a quel punto inizia a trovare ritmo, passaggi, verticalità soprattutto, che poi i due gol sono arrivati, il primo magari in maniera più cercata, il secondo forse un pochino più casuale, però proprio con questa ricerca della verticale, della profondità. No, ma il senso, anche lo diceva prima Pierluigi, devono ancora un po' prenderci la mano gli allenatori con questa storia delle sostituzioni, perché ieri è andata bene con Fonseca, in altri casi un po' meno bene. Certo che se hai uno come Dzeko è una bella polizza d'assicurazione, Pier? Beh, Dzeko è fantastico. Pazzesco. Dzeko è un calciatore fantastico, non lo conosco, ma direi che è anche un uomo fantastico, nel senso che è uno che mi sembra abbia fatto delle scelte anche importanti di vita, mi sembra un leader all'interno dello spogliatoio. È chiaro che fa parte di quella categoria di attaccanti che partecipano, discorso che ho fatto mille volte, che riguarda Lukaku, e quindi partecipando qualche volta non ha la benzina necessaria, la lucidità necessaria, cioè non è il miglior stoccatore al mondo ovviamente, però è un giocatore enorme. Ieri ha fatto due gol pazzeschi e credo che insomma ieri è stata veramente una serata da sliding doors per Roma, perché chiaro, è inutile girarci attorno, ma è ovvio che le due squadre vivono anche molto una nel momento dell'altra. Immagino, non ero all'Olimpico perché ero a Milano, che nel momento in cui la Roma perdeva, la Lazio era avanti 2-0 contro l'Atalanta, insomma dal punto di vista ambientale ci fosse l'aria un po' bassa, dici, sarebbero stati giorni molto diversi. Invece nel secondo tempo è girato tutto e vedremo. Detto questo, dal punto di vista pratico io credo che la Lazio sia ancora assolutamente in condizione di portarlo a casa, anche se sicuramente la botta di ieri pesa. E credo che la Roma essenzialmente deve fare la corsa su se stessa, ma dovrebbe veramente sperare in un calo dell'Atalanta, che è difficile. Da un punto di vista pratico, forse alcuni tifosi della Roma avrebbero preferito il pareggio contro l'Atalanta, perché sicuramente avrebbe riaperto un po' di più. Però insomma, le giornate sono tante, le variabili sono molte. Dzeko ha risolto intanto un bel problema. Sì, certo che se davanti a un Atalanta che corre in quel modo lì diventa un po' difficile anche fare dei diventa un po' difficile fare dei sogni. Matteo, invece, sul fronte societario continuano ad arrivare notizie tutt'altro che rassicuranti, tutt'altro che incoraggianti. Se le cose continuano così, banalmente credo che i tifosi a Roma si debbano preparare ad un'altra estate, un'altra sessione di mercato molto simile alle precedenti, all'insegna del trading. Temo che sia inevitabile, parlavamo prima della Champions League, questo può essere obiettivamente un piccolo elemento di differenza, dico piccolo perché è vero, si tratta di un affare che può valere anche 40 milioni nei conti, forse 50, è difficile fare una stima veramente, diciamo almeno 40 milioni nelle casse di una società, però è anche vero, come giustamente diceva Mier, che in questo momento, come dire, fare la corsa sull'Atalanta diventa obiettivamente complicato. La Roma ha la seconda strada della quella dell'Europa League, ma anche quella non è esattamente una strada semplicissima, e soprattutto, dicevate bene, la situazione anche da un punto di vista di liquidità, perché non solo di conto economico, ma anche proprio dal punto di vista della liquidità, alla Roma sembra francamente seria, ecco. Cioè si tratta di pagare le bollette, soprattutto gli stipendi. La Roma ha fatto ricorso a un prestito per pagare, garantito dallo Stato, per pagare gli stipendi. Non mi sembra che siano segnali molto incoraggianti dopo una relazione agli azionisti già molto preoccupante meno di un mese fa, dopo le scelte di Pallotta, che di fatto ha fatto lui stesso una sorta di prestito alla Roma, sì, chiamiamolo così, non è un prestito ma di fatto più o meno di questo si tratta. C'è ovviamente in ballo il passaggio di proprietà da mesi, e magari si sarebbe già concretizzato se non ci fosse stato questo ostacolo della pandemia, ma non è certo solo la Roma a farci conti, anzi. No, perché vedi, mille volte io e Pierluigi ci siamo trovati a dire le stesse cose, cioè la Roma è una squadra che avesse evitato di vendere tutti i giocatori migliori negli ultimi anni, sarebbe stata stabilmente in Champions League con eccellenti prospettive, stesso dicasi per il campionato italiano. Invece la parola chiave è sempre training. Io penso che la colpa sia stata soprattutto una colpa di comunicazione, nel senso che se noi guardiamo i risultati, premesso che vincere i trofei è molto importante ovviamente, però non è che in Italia negli ultimi anni ci siano state 10 squadre che hanno fatto semifinale di Champions. Ha dominato la Juve, è stata molto brava la Lazio nel ritagliarsi dei pezzetti importantissimi di gloria, il Napoli ha vinto qualcosa, cioè questa è la verità, insomma la continuità complessiva della Roma negli ultimi anni, se facciamo un discorso razionale, non è da buttare via, cioè, la Roma negli ultimi anni è stata costantemente in Champions League o negli anni in cui era male a un passo dalla Champions League. Sì, però vedi, se anche adesso è un'eccellente base. Il problema secondo me sta molto nella comunicazione, nel rapporto con i tifosi, in una proprietà che è distante, in una confusione societaria che spesso si evidenzia, in un clima di elettricità che non è normale, per cui si va in confusione perché magari c'è un like a un posto, ecco, questa roba qui secondo me è sicuramente la società doveva essere più presente, e secondo me forse doveva capire anche meglio il tifoso, il popolo giallorosso, che forse aveva semplicemente bisogno di più chiarezza e di più calore, certo, al di là dei risultati. I risultati, ripeto, non sono a buttare via, ma è ovvio che uno vince, alzi una coppa, insomma la Roma arrivare in semifinale di Champions League, un risultato così avanti in Champions non c'era mai arrivata dai tempi della finale contro il Liverpool di quasi 40 anni fa, quindi Secondo me non è tanto un discorso razionale oggettivo, è più un discorso importante, proprio perché il calcio non è un business come tutti gli altri, ma è un rapporto fiduciario, una corrispondenza di sensi con il proprio pubblico, e qui la società è mancata, secondo me, tante volte. Sì, alcune internazioni non stare proprio in linea, secondo me, con quello che la gente si aspettava. Adesso però devi comunicare, devi trovare il modo per comunicare ai tifosi che l'eccellente base che la Roma ha adesso come organico dovrà probabilmente essere ritoccata al ribasso. Questo è il vero problema, perché non riesci mai a trovare una base di partenza stabile su cui costruire la tua casa, il tuo castello, il tuo grattacielo, quello che vuoi, no Matteo? E il paradosso, assolutamente vero, il paradosso è che forse questo era il primo anno in cui si arrivava al mercato estivo con l'idea di non sfasciare tutto, bravo, di tenere i migliori. Esatto. Le contingenze hanno portato, o rischiano di portare a una situazione diversa, a dover sacrificare anche i giocatori più importanti, nel senso che in questo momento sfortunatamente nella Roma tutto ha un prezzo. È veramente solo una questione di prezzo. Persino Zaniolo e Pellegrini hanno un prezzo. Quello di Pellegrini è la clausola rescissoria, io non credo che francamente verrà esercitata. Quello di Zaniolo credo sia stato fissato intorno ai 70-80 milioni, che vuol dire una cifra forse inavvicinabile in questo mercato, ma dobbiamo tenerci il forse, perché parliamo di un ragazzo di 21 anni che rappresenta probabilmente il miglior talento italiano della propria generazione o giù di lì, e quindi la cifra non è necessariamente inavvicinabile, e quindi anche quest'anno il rischio è che la continuità venga spezzata. L'arrivo è imminente, quello di Pedro. Un'altra continuità che verrà spezzata è quella della conduzione, della direzione sportiva, perché Petrachi credo che ad ore riceverà una lettera di licenziamento. Questo mi arriva da canali abbastanza informati, quindi credo che lì da tempo ha ripreso in mano la situazione Franco Baldini, semmai l'ha abbandonata, non credo che l'abbia mai realmente abbandonata. Il primo colpo sarà un attaccante di 33 anni, ossia Pedro. Devo dire che per quanto siano giocatori di qualità come anche Mkhitaryan, come anche Smalling, francamente faccio fatica a vedere una visione in una ma poi c'è un tema di presenza che non è soltanto così aria fritta, è proprio presenza, cioè una società troppo, secondo me negli ultimi anni, troppo distante, perlomeno questo è quello che ha comunicato, ma poi dei fatti lo vediamo, no? Perché succedono situazioni come quella di Petrachi che senza entrare nel merito però sono assurde. Cioè, sono cose che non succedono negli altri club. I risultati non sono catastrofici. Il vero paradosso è che i risultati non sono catastrofici, poi ovviamente il tifoso non vince e quindi ovviamente non è felice, questo è indiscutibile, però non sono risultati nel senso assoluto. Quello che non si capisce è un certo modus operandi della società, con tutta una serie, ed è il tema secondo me della catena, che non c'è una catena corta, che non ci sono responsabilità precise. Tu hai l'esempio della Lazio, che è una società con un budget e con un fatturato più basso, ma che negli anni, passo dopo passo, con una catena di comando molto corta, con 3-4 persone nei loro ruoli, con le loro peculiarità, alla fine i risultati li ha portati a casa. Sistema opposto di gestione. Ecco, è il sistema opposto di gestione. Non voglio dire che una sia giusta e l'altra sia sbagliata, perché poi ci sono stati pure gli anni in cui la Roma andava molto meglio della Lazio. Però io credo che un po' più di presenza, un po' più di... Cioè, qui c'è Londra, c'è Boston, però insomma serve poi che ci sia una disciplina, che ci siano delle regole, che ci sia anche una capacità, secondo me, di parlare ai tifosi con franchezza, perché poi il tifoso se lo coinvolgi, secondo me, nella maniera giusta, non è che ti abbandona. Devi trovare il modo per comunicare con lui, secondo me, nella maniera più corretta, e questo non sempre c'è stato. Grazie Pier, a domani. Ciao, ciao. Ciao. Grazie anche a Matteo Pinci. Ciao, Pier. Alla prossima, ci fermiamo per l'ultimo traffico, un pelo in ritardo, e poi parliamo di mercato, sì, ma quello delle moto. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Hai scoperto che per andare a lavorare non serve andare in ufficio. Per fare un meeting con i fornitori non serve una sala riunioni. E che per incontrare i clienti basta essere connessi in sicurezza. Perché con Vodafone Business hai anche Microsoft 365 e il tuo posto di lavoro è ovunque tu sia. Il tuo lavoro digitale, la nostra soluzione per renderlo sicuro e sempre connesso. Chiedi al tuo consulente Vodafone Business o vieni su voda.it/lavoro digitale. Ready? Convocati. È comprensibile che un pilota con le statistiche che ha Jorge abbia intenzione di finire la carriera in modo migliore rispetto a come ha fatto l'anno scorso. E detto questo, è difficile capire le sue reali motivazioni, è sicuramente una grande incognita. Ma da questo punto di vista potrebbe essere un'ipotesi nel caso in cui la trattativa con Dovi non andasse in porto? È assolutamente prematuro fare un ragionamento del genere. La trattativa con Dovi è iniziata tanto tempo fa ed è ad un punto di stallo, quindi vedremo. Questo era Gigi D'Alegna intervistato da Sky, responsabile del muretto rosso. Allora io ho chiamato a consulto il professor Pernat per farmi spiegare. Ciao Carlo, per farci spiegare cosa sta succedendo alla Ducati in parole povere. Ma guarda, in parole povere io la leggo in un certo modo, cioè leggo il fatto che secondo me Ducati per l'enorme fiducia Dovizioso proprio non ce l'ha, o perlomeno ce l'ha in parte. È chiaro che i rapporti ultimamente fra Ducati e soprattutto Dovizioso D'Alegna non sono dei migliori, ma questo succede nelle migliori famiglie, perché un pilota vuole una cosa, un ingegnere vuole un'altra, e meno male che c'è questo discorso. Però è discorso diverso che io ho visto la Ducati cercare Pol Espargaro a maggio, firmare con Miller, chiedere di Quartararo, fare un'offerta a Vinales, addirittura anche a Marquez, anche se sapevano che non andava a porti. Io ti parlo di due mesi passati. Sì. Cioè, quindi a questo punto io credo che non ci sia quella fiducia incondizionata che si deve avere in un pilota. D'altronde Dovizioso, ragazzi, è l'anti-Marquez, per 3 anni ha fatto secondo, ecco. Poi è chiaro che fare l'anti-Marquez oggi non è facile, anzi direi che è quasi impossibile. Io non vedo quella gran fiducia. Anche Angel D'Alegna nelle sue dichiarazioni parla di discorso economico, ho capito, però Miller ha firmato, sì. Sono stati cercati altri piloti e Dovi mi sembra che sia stato messo addirittura in coda, come quasi se fosse scontato che potesse accettare una riduzione del 50-40%, quello che è, perché poi le cifre non le conosciamo. Però la vivo male, non la vivo bene, anche il fatto di Lorenzo. È chiaro che Lorenzo, allora diciamo che in una favola Gigi D'Alegna è il papà e Lorenzo è il figlio, sì, perché sono sempre stati legatissimi, cioè. Bravissimo. È chiaro che vedi che anche le delegazioni di Gigi D'Alegna non sono poi di chiusura delle porte. Cioè il discorso di D'Alegna è: sarà ancora in pilota, cioè secondo Lorenzo, guardati a uno specchio, guardati le motivazioni che hai, ti consideri un pilota? Bene, è un discorso, lo possiamo fare. Secondo me anche questa apertura, perché è un'apertura, perché se io voglio Dovizioso dico no, io farò di tutto per avere Dovizioso, certo, eventualmente. Quindi vedo una situazione un po', francamente, parlo da tifoso, non da manager di azienda, sì, manager del pilota, non la vedo una bella cosa verso Andrea. Ma sai, qui c'è anche il discorso di 2 anni fa, quando lui aveva corso con 1,5 milioni di euro contro i 12 di Lorenzo, certo, se ti ricordi. Certo. A fine anno Dovi gli ha dato nella testa di brutto, no? Perché Lorenzo non si era adattato, né abituato, e poi ci fu rinnovo dei contratti e ci misero 6 mesi. Ti ricordi che fu firmata alle Mans? Sì. Queste cose, secondo me, rimangono anche un po' nella testa di un pilota in una trattativa, perché non ti senti. Il pilota, c'è una regola fissa, deve essere sempre vezzeggiato e considerato il numero uno. Sì, devi coccolarlo tuo pilota. La sensazione sì, è che, dicevi tu, tutta questa, così, questo amore incondizionato nei confronti di Dovizioso non ci sia. E poi c'è anche il discorso, dicevi, Lorenzo, di cui si è tornati a parlare, è sempre stato il cocco di D'Alegna. Il management non lo vedeva così di buon occhio, ma questa è storia passata. Lui è andato via per questa ragione. Ora con Petrucci che vabbè, è stato scaricato, è stato firmato Miller, tra l'altro Petrucci va in KTM e secondo me per lui una battuta su, su Petrucci in KTM, Carlo. Se lo merita, secondo me è un buon, perché... è un buon manubrio. È uno che è arrivato quinto nel mondiale, quelli di, doveva stare nella MotoGP, non doveva andare certo, in Superbike. Certo. Quindi è uno che si è fatto da solo, tanto di cappello, ha un'altra possibilità e vedrai che se la giocherà anche tanto, tanto bene, se la merita e sono contento per lui e anche per KTM. E che il discorso adesso, se hai visto la Ducati, ha giocato talmente bene, secondo me, la trattativa da un loro punto di vista, che alternative Dovizioso non ne ha. Sì, no, ma appunto, Dovizioso con le spalle al muro. Ciao Carletto, a presto. Grazie a voi. Ciao. Bacione. Tra l'altro, Moto Mondiale che va a ricominciare il 19 di luglio. Noi invece chiudiamo la puntata di oggi ringraziando Claudio Schiattone in redazione, Laura Vanossi in assistenza, Valeria Bernardi, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti convocati domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.